I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Si alza il sipario sul negoziato tra Unione Europea e Gran Bretagna per la Brexit, ovvero per l'uscita di Londra dalla UE. Tra poche ore, nella sede della Commissione a Bruxelles, le due delegazioni siederanno una di fronte all'altra. Da una parte ci sarà Michel Barnier, capo negoziatore europeo, dall'altra David Davis, segretario di Stato britannico per l'uscita dall'Unione Europea. Non sarà un negoziato breve, serviranno quasi 2 anni per chiudere i lavori e non sarà neppure un negoziato semplice. La prima volta che un paese esce dal club europeo, le sessioni iniziali del negoziato serviranno per fissare le regole del gioco, poi la trattativa si farà serrata su 2 questioni prioritarie: la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e gli impegni finanziari di Londra con l'Unione Europea. Certo, le elezioni politiche dell'8 giugno, di fatto perse dal primo ministro Theresa May, hanno aperto all'ipotesi di una Brexit più morbida rispetto alla possibilità di un divorzio netto e profondo. Così già oggi il ministro Davis potrebbe presentare un'offerta molto generosa ai 3 milioni di europei che vivono in Gran Bretagna, che non muterebbe di fatto le attuali condizioni per la permanenza in Gran Bretagna, garantendo ai cittadini europei gli stessi diritti di cui godono adesso. Capiremo presto se sarà un'apertura vera o solo una tattica di Londra per resistere su altri fronti, a partire dal controllo sull'immigrazione, tema che da sempre divide Londra dal resto dell'Europa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Arriva l'estate e faremo tutti quanti bene a fare attenzione non solo a quanto teniamo la musica alta o i nostri figli, ma anche il televisore o altre attività che durante le notti estive possono arrecare disturbo alla quiete pubblica. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28670 pubblicata in data 9 giugno 2017, ha messo nero su bianco alcuni punti importanti che in Italia sono state oggetto non soltanto di cause ma anche di scontri fisici molto violenti fra condomini. Questo è quello che dice la Cassazione: il televisore a volume alto intera il reato di disturbo del riposo delle persone. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, e qui parliamo di abbaiare, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o intrattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. In altre parole, se il cane abbaia troppo, se il volume della radio è alto, della televisione, teniamo la musica o si fanno feste fino a tarda notte, il rischio diritto è quello di finire in galera se qualcuno protesta. Ma il punto è: quanti devono essere a protestare? In questo senso la Corte di Cassazione ha aperto una finestra nuova. Non è più sufficiente che siano soltanto gli inquilini del condominio da cui provengono i rumori, ma anche quelli del circondario, perché la discriminante è la generalità del disturbo che creiamo. Come dire, bisogna guardarci intorno, perché se intorno alla nostra abitazione non ce ne sono altre, farà testo quella del piano di sotto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.